Noi pensiamo che sulla questione dell'ex caserme dovrebbero essere un patrimonio collettivo e della città, invece ancora una volta vediamo che questa amministrazione utilizza dei beni pubblici mettendoli di fatto a servizio di speculazione dei privati, quindi Bologna si riconferma essere in questo tipo di progetti, il parco giochi della speculazione immobiliare, invece noi pensiamo che non basti qualche miglioria, ma che le caserme, tutte le caserme, tra l'altro non solamente quelle già citate, debbano tornare a essere patrimonio della città e quindi essere riconvertite ad uso sociale, quindi sia per l'edilizia pubblica che per ad esempio centri di aggregazione di studentati per i giovani, visto che sappiamo tra l'altro il problema abitativo in questa città è fortissimo e l'amministrazione comunale e ACE non hanno fatto nulla per metterci un freno, se non anzi negli ultimi anni avere implementato un modello cittadino che di fatto ha fatto schizzare gli affitti alle stelle. Quindi noi pensiamo che debbano essere, sono pubbliche e debbano restare al servizio dei cittadini e delle cittadine di questa città. A proposito della questione della casa, voi nelle vostre controproposte su appunto queste aree puntate molto sugli studentati, perché il problema abitativo lo vivono molto studentesse e studenti. Certo, chiaramente non solamente studenti e studentesse, tra l'altro appunto sugli studenti viene fatta sempre tanta demagogia e spesso vengono appunto strumentalizzati quando serve oppure demonizzati. Invece noi pensiamo che per una parte viva di questa città, una risorsa anche per questa città, e mentre invece appunto l'amministrazione negli ultimi anni di fatto li ha espulsi rendendo appunto la città ad uso e consumo per i turisti, salvo poi appunto ricordarsi degli studenti solamente in piena pandemia quando gli alloggi appunto per la Airbnb eccetera si sono svuotati, allora ci si è ricordati che esistono gli studenti e le studentesse in questa città. Le caserme sarebbero un ottimo spazio da riconvertire, quindi senza aggiungere cemento, ma riconvertire per fare degli studentati e centri di aggregazione giovanile. Tra l'altro ricordiamo che è significativo che i progetti di speculazione su queste appunto di queste caserme fanno parte tra l'altro spazi che prima invece ospitavano spazi di aggregazione dal basso che sono stati sgomberati con ruspe e manganelli che appunto non hanno niente da invidiare alle ruspe e manganelli della Lega. Un'altra cosa che dite è bloccare il cemento finché lo sfitto non sarà tutto abitato. Esatto, noi pensiamo che non è possibile che esistano case senza persone, persone senza casa e l'amministrazione comunale deve farsi carico dell'emergenza abitativa in questa città e quindi imponendo dei tetti agli affitti che sono appunto schizzati alle stelle e requisendo anche se necessario tutto lo sfitto, quindi prima di iniziare a pensare a progetti che aumentano la cementificazione di cui non c'è assolutamente necessità, pensiamo invece a utilizzare tutto lo sfitto che oggi è lasciato vuoto in mano alla speculazione.